se vuoi glielo mettiamo anche là davanti, lui lo accetta, eh? Ma vabbè, che lo scusami Claudio. Arrivo. Va? Sì. Ok. Grazie. C'è ancora qualcuno? C'è ancora qualcuno che può segnare qualcosa? No? Posso? Beh. Dovremmo essere a posto, ok. Le lasciamo. Sì, sì, ce li ha lui. Vabbè. I suoi appena. Ah no, manca. Allora, oggi iniziamo la parte diciamo più politica del corso. Abbiamo prima affrontato la parte economica, abbiamo introdotto la parte demografica, faremo quella di natura sociale, adesso cominciamo ad affrontare i problemi di ordine politico. A proposito, prima di iniziare, sono riuscito ad ottenere una disponibilità di aula per un paio di lezioni supplementari. È vero che voi siete contenti di fare lezioni supplementari, vero? Bravi. Preferite il lunedì alle 8:30 o il mercoledì alle 12:30? Cioè, purtroppo non subito dopo la lezione di economia, c'è cioè un intervallo di 2 ore, si va dalle 2:30 alle 4, dalle 12:30 alle 2:30. Che preferite? Però vi dovete tenere per un paio d'ora. Così, insomma, non fare una mazza in giardino, ecco questo. Va bene? Allora, già lo chiedo per i prossimi mercoledì, sorridete. Bene. Allora, abbiamo detto che con la fine dell'Unione Sovietica e del blocco orientale fra l'89 e il 91 finisce il mondo bipolare. L'ordine mondiale bipolare scaturito dalla seconda guerra mondiale a termine. Si pone il problema di un nuovo ordine mondiale. La situazione è tale per cui di grandi potenze ormai ne è rimasta in piedi solo una, gli Stati Uniti, e il divario di potenziale finanziario, militare, tecnologico fra gli Stati Uniti e gli altri paesi appare assolutamente incolmabile. Dal punto di vista, per esempio, della ricerca scientifica, basti dire una cosa, che secondo le statistiche già di metà degli anni Ottanta, gli Stati Uniti rappresentano il 54% dei titoli di pubblicazioni scientifiche a livello mondiale, da soli rappresentano più della metà. Leggermente inferiore è la presenza degli Stati Uniti per i brevetti, dove c'è una presenza significativa del Giappone. Dal punto di vista militare, la Marina degli Stati Uniti equivale alla sommatoria delle prime 8 marine mondiali. Dal punto di vista della flotta aerea, l'aeronautica, l'aviazione militare americana equivale alla sommatoria delle prime 19 aviazioni a livello mondiale. Dunque non esiste possibilità di confronto militare. Non esiste possibilità di confronto in sede tecnologico-scientifica e meno che mai esiste possibilità di confronto in sede economico-finanziaria, vuoi per l'incidenza degli Stati Uniti nella produzione mondiale, vuoi per la centralità del dollaro di cui vi ho ampiamente detto nelle lezioni precedenti. Nasce quindi l'idea di un nuovo ordine mondiale incentrato intorno a una sola grande potenza. E si manifestano una serie di progetti. C'è in particolare il recupero della nozione di impero. Cos'è l'impero? La nozione di impero nasce nell'antica Roma e per sua natura nasce al singolare, l'imperium. L'imperium sottintende il soggetto unico in grado di garantire la pace a livello mondiale. Naturalmente per livello mondiale intendiamo le aree geografiche immediatamente a contatto con l'impero romano, non certamente le aree più remote. Cina e Roma sono due imperi, ma non sono a contatto fra di loro. Il sistema imperiale prevede che accanto allo stato dominante, uso imperfettamente l'espressione stato per capirci, ci sia una serie di clientes e di federati, alleati e clienti, che contribuiscono al funzionamento e che godono della protezione di Roma, partecipando però al suo sistema difensivo. Successivamente l'impero conoscerà un'evoluzione di natura diversa. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, il conflitto fra il rinascente Sacro Romano Impero e la Chiesa, nasceranno, quasi un ossimoro, degli imperi nazionali. L'impero, abbiamo detto, che all'inizio nasce come declinazione al singolare, perché esprime l'idea di un comando unico, ma l'evoluzione successiva, soprattutto con la nascita dei grandi imperi coloniali, sarà quella di più imperi a carattere nazionale, incentrati intorno a un grande Stato-nazione sostanzialmente. Portogallo, la Spagna, l'Inghilterra, l'Olanda, la Francia. Ed è un fenomeno essenzialmente dell'Europa occidentale. Successivamente nasceranno altri imperi. Però l'Austria all'inizio è, insieme alla Spagna, l'unico impero degli Asburgo, poi si frammenterà. La stessa cosa potremmo dire in qualche modo per l'Olanda, che si sottrae con la rivolta dei Paesi Bassi del 1572, e successivamente nascerà l'impero russo. Quindi una pluralità di imperi. La nozione di impero tuttavia verrà gradualmente abbandonata per l'espandersi dei processi di democratizzazione. Tanto l'impero presuppone una centralità di comando che il più delle volte si accompagna a un modello di tipo monarchico, e l'emergere invece di regimi repubblicani, badate che Roma era una repubblica quando fonda l'impero, ma evolverà, e formalmente tale resta, ma evolverà sostanzialmente in un modello di tipo monarchico, con la figura dell'imperator. Lo stesso accadrà per esempio alla Francia post-rivoluzionaria, che è una repubblica ma che diventerà impero e a carattere ereditario con la parte. I processi di democratizzazione, le rivolte, le rivoluzioni anticoloniali in qualche modo delegittimeranno l'idea di impero. In primo luogo la rivoluzione americana rappresenta una messa in crisi dell'idea di impero e l'affermazione del principio di autodeterminazione dei popoli, che, come vi ho detto nella lezione precedente, non è separabile dal concetto di possesso territoriale. L'autodeterminazione dei popoli avviene... Ma com'è che oggi state tutti raffreddati? È un'ondata di... L'autodeterminazione dei popoli ha un senso solo se riferita alla costruzione di un ordinamento giuridico all'interno di un ambito spaziale. Le rivolte anticoloniali segnano la delegittimazione dell'idea di impero, gradualmente, e più di tutti portatore di questa negazione dell'idea di impero sono gli Stati Uniti. Stati Uniti che, nati da una rivolta antiimperiale, contrasteranno sistematicamente il colonialismo europeo. Gli Stati Uniti non avranno un loro impero coloniale, pur potendolo avere. L'unico possedimento territoriale all'esterno saranno le Filippine a seguito della guerra con la Spagna del 1898, ma peraltro sarà un periodo abbastanza delimitato di tempo, al termine del quale le Filippine si trasformeranno in repubblica indipendente. Uno dei capisaldi della dottrina di Wilson sarà appunto quello dell'autodeterminazione dei popoli, e in particolare la sconfitta dei grandi, la dissoluzione dei grandi imperi plurinazionali europei come l'impero austro-ungarico. Dopo la seconda guerra mondiale, caposaldo della politica estera americana sarà il superamento dell'ordine coloniale, la nascita delle Nazioni Unite e la decolonizzazione. Quindi, come vedete, la nozione di impero in quanto occupazione stabile di un territorio da parte di una potenza metropolitana e occupazione garantita militarmente è una nozione profondamente negata, profondamente respinta dalla cultura repubblicana americana. Nascerà piuttosto, con la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo detto, un'ipotesi di neocolonialismo attraverso il condizionamento economico esercitato dalle grandi istituzioni internazionali, Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale in primo luogo, nelle quali gli Stati Uniti esercitano un ruolo egemone. Dunque, gli Stati Uniti da sempre sono avversari dell'idea dell'impero, quantomeno intesa in quanto impero nazionale che esercita un condizionamento militare su un determinato territorio. Ma dal 76 inizierà una fase di revisione, compariranno delle opere che condizioneranno fortemente il pensiero politico americano attraverso una sostanziale rilegittimazione dell'idea di impero. È il caso, per esempio, dell'opera di Eduard Luttwak. Eduard Luttwak è un intellettuale di origine ungherese trapiantato negli Stati Uniti ed uno dei politologi più ascoltati non solo dalle amministrazioni repubblicane, anche da quelle democratiche, pur essendo Luttwak più collocato in area repubblicana. Luttwak pubblica un libro importante nel 76, La grande strategia dell'impero romano, dove sostanzialmente si scrive Roma ma si legge altro, ed è già un tentativo di rilegittimare l'idea di impero, tornando però all'idea precedente di impero come dominio unico, cioè come comando unico centralizzato attraverso un sistema di alleanze, di federati e di clientes che in qualche modo partecipano all'ordine internazionale. La cosa verrà poi ripresa ulteriormente da altri autori, ultimamente c'è una grande produzione in questo senso, per esempio Niall Ferguson ha ripetutamente scritto opere importanti in questo senso. In questo quadro concettuale avverranno una serie di evoluzioni importanti negli Stati Uniti, in particolare la rivoluzione degli affari militari, che trasformerà il pensiero militare americano, ma non so se il docente di sociologia vi ha mai parlato di Otto von Hintze, no eh? Vabbè. Come ci insegna Otto von Hintze, la concezione dell'esercito è in qualche modo qualcosa che informa di sé la concezione di una società, è profondamente condizionante le istituzioni politiche. La rivoluzione degli affari americani, degli affari militari in America confermerà questa idea, confermerà l'idea che l'organizzazione degli affari militari ha un'immediata ricaduta sul modello statuale. In particolare ci sono alcune cose importanti. Primo, gli Stati Uniti hanno sempre avuto un pensiero strategico tendenzialmente difensivo. Hanno sempre puntato sulla loro insularità, sul loro grande potenziale industriale e quindi su guerre di lungo periodo, tali da sfruttare il logoramento dell'avversario al riparo da possibili attacchi. Gli Stati Uniti non hanno mai conosciuto guerra sul proprio territorio dalla guerra di secessione in poi. Gli Stati Uniti hanno sempre puntato sulla loro capacità di sviluppare un potenziale tecnologico militare senza confronti, in grado di battere un avversario già logorato in qualche modo. Ma nel 1981, con una risoluzione comunemente indicata come Airland Battle, cioè battaglia aeroterrestre, cambia completamente il pensiero strategico americano. L'idea è quella di una guerra lampo, cioè la conversione degli americani alle teorie della guerra lampo, che invece avevano caratterizzato il pensiero strategico tedesco del Novecento. L'idea che l'attacco debba essere svolto in questa maniera: le forze aeree, sulle quali gli Stati Uniti godono di una preminenza assoluta, provvedono a scompaginare le retrolinee avversarie e a isolare i reparti immediati in un arco, in un raggio pari a 72 ore di movimento carri armati, per cui nel giro di pochissimo tempo si realizza lo sfondamento e quindi subito dopo. L'idea qual è? Inizia a farsi strada un'idea: gli Stati Uniti possono iniziare a pensare a un loro ruolo mondiale solo ad una condizione: la capacità di atterrare rapidamente qualsiasi avversario in modo da poter imporre la loro presenza in qualsiasi parte del mondo, in modo da tutelare gli interessi americani in qualsiasi parte del mondo in qualsiasi momento. Questo può darsi solo se la guerra non diventa di lunga durata. Ma gli Stati Uniti uscivano dallo shock della guerra del Vietnam, di cui vi ho detto qualcosa. Gli Stati Uniti sono una società che sopporta molto male le perdite umane. Quindi occorre anche un altro passo avanti. Gli Stati Uniti non possono permettersi il lusso di un'opposizione alla guerra interna, che è quello per il quale, la ragione per la quale furono costretti a ritirarsi dalla guerra del Vietnam. E in Vietnam gli Stati Uniti non hanno perso una sola battaglia, e il crollo avviene all'interno della scena americana. E questo significa sviluppare un modello di guerra tendenzialmente a zero morti propri, intendiamoci, come attraverso l'utilizzo di droni, attraverso l'ampia robot, attraverso un ampio sviluppo della tecnologia. Però implica anche un'altra cosa, e qui vedete come inizia a tornare quello che vi dicevo di Otto von Inse sulla concezione militare che modella la concezione di Stato e di società. Un esercito altamente tecnologico, e che in un paese in cui si sopporta poco l'idea delle perdite umane, è un esercito che ha una contraddizione: richiede specialisti di altissimo livello che però non possono essere pagati come normalmente sono pagati i soldati di un esercito regolare. D'altro canto, le perdite umane sono rese più sopportabili dal fatto che magari l'eventuale soldato sia un volontario. Nasce così un ampio settore di mercenariato. Le compagnie private militari, i cosiddetti nuovi mercenari, di cui avete sentito parlare, suppongo, che ormai rappresentano uno dei settori più importanti dell'apparato difensivo americano. Solo in Iraq ci sono circa 30.000 uomini appartenenti a compagnie private militari in funzione di supporto o di scorte o di servizi logistici. Se tenete presente che dopo il contingente americano sono il contingente più importante, gli inglesi avevano 11.000 uomini, questo vi fa capire il rilievo della questione. La presenza del mercenariato e il grande sviluppo tecnologico, accompagnato peraltro a un'altra cosa di cui vi ho detto nelle lezioni precedenti, la tendenza a delocalizzare la produzione industriale, che è accaduta negli Stati Uniti a tutti i livelli, eccetto che per l'industria delle armi, che rappresenta oggi il business più importante per gli Stati Uniti e il volano di sviluppo tecnologico anche per il resto dell'industria. Molti oggetti che noi abbiamo a disposizione oggi vengono dalla tecnologia militare. Internet, per esempio, era una rete di comunicazione militare. Tutte le i telefonini in gran parte sono figli di una tecnologia militare. Il sistema satellitare che ci permette di telefonare, di vedere le televisioni, eccetera, eccetera, è un sistema nato in ambito militare. Ma persino qualcuno di voi magari avrà, non oggi che fa caldo, ma in giornate un po' più fredde, avrà dei giubbetti di lana di vetro. La lana di vetro non è nata se non in ambito spaziale, era uno dei rivestimenti delle tute degli astronauti. L'industria astronautica era in ambito militare. Le fibre ottiche nascono in ambiente militare, quindi come vedete gran parte della tecnologia ha la sua testa nelle ricerche militari. Lo sviluppo della tecnologia militare e la presenza di grandi compagnie private ha contribuito grandemente a realizzare il vero blocco sociale dominante oggi in Occidente, che è l'alleanza della lira e della spada, dell'esercito e della moneta. L'intero sistema di potere si regge sul stretto incrocio fra affari militari e finanza garantiti dal potere politico. Ecco, vedete come inizia a cambiare sensibilmente anche il sistema politico americano, il suo sistema decisionale, la capacità di influenzare gli alleati, la capacità di formare opinione pubblica al suo interno. Tutte le campagne presidenziali americane dal 1980 in poi, da quella che porterà al governo Reagan in poi, si giocheranno quasi sempre intorno a progetti militari, come per esempio il progetto degli scudi stellari, dello scudo stellare, che sarà la caratteristica, direi quasi la sigla dell'amministrazione Reagan. Intorno a questo progetto, a questa idea, a questa trasformazione del sistema politico americano, nasce un gruppo di intellettuali, i cosiddetti neocons americani, David Crystal per esempio, Lipset, altri autori importanti di questo genere, che progettano quello che sarà la linea politica degli Stati Uniti, badate, non solo delle amministrazioni repubblicane dei due Bush, padre e figlio, ma in qualche modo anche dell'amministrazione democratica di Clinton. E se oggi appare desueto questo progetto, non è tanto perché c'è l'amministrazione democratica di Obama, quanto perché oggettivamente appare oggi poco praticabile dopo la crisi del 2008. Ed è il progetto per un nuovo secolo americano. Il progetto per un nuovo secolo americano presuppone appunto un'idea di impero per il quale gli Stati Uniti sono architrave da soli dell'intero sistema politico mondiale. Tutto questo non arriva a una teorizzazione giuridica vera e propria, a una sorta di costituzione mondiale di tipo imperiale, ma ne pone seriamente le premesse politiche, e ci sarà un momento in cui sembrerà che evolva verso un sistema istituzionale, ma ne parleremo fra un minuto. All'interno del gruppo di intellettuali neocons emergeranno due personalità particolari, e cioè Fukuyama e Samuel Huntington, che saranno quelli che esprimeranno le due principali opzioni intorno a cui si organizzerà il dibattito politologico a livello mondiale. Il primo è Fukuyama, un intellettuale di origini giapponesi che insegna storia negli Stati Uniti, di formazione strettamente filosofica e di indirizzo nettamente storicista. A proposito, colgo l'occasione per una risposta, credo, a Gualandri, che mi aveva chiesto di Popper. Eri tu che me l'avevi chiesto o era... sì, no, scusa, chi è che me l'aveva chiesto? Era Gualandri, che però non vedo oggi. In Ungheria in un corso, non c'è. In Ungheria. Sta facendo un corso. Cioè, non c'è niente da fare, la dico, questa era in Ungheria, vabbè. D'accordo. Allora, sì, oggi che gli volevo dare la risposta non c'è. Va bene, diamo una rata. Guardate, uno dei meriti più importanti di Popper, criticabile per altre ragioni di cui vi ho detto, è uno dei motivi che spiega la mia stagione popperiana, è la sua critica dello storicismo, l'idea che il sapere non può anticipare. Scusate, ma ho dimenticato di spegnere. Il sapere non può anticipare se stesso. Un'epoca storica non può prevedere, predeterminare, predecidere le successive. Ragione per cui la storia non ha una direzione di marcia. La storia non ha un futuro scritto da qualche parte. Con Fukuyama invece c'è il recupero dello storicismo hegeliano. In estrema sintesi, nel 1891 Fukuyama pubblica un libro che avrà grande fortuna a livello mondiale, La fine della storia e l'ultimo uomo. L'idea qual è? L'idea è essenzialmente questa. La storia, Fukuyama recupera in pieno la filosofia politica di Hegel, la filosofia della storia di Hegel, in particolare per la verità attraverso la lettura che ne fa Kojève, un intellettuale ebreo francese che peraltro non è stato soltanto un filosofo, è stato anche uno dei consiglieri del principe nella Quinta Repubblica. Sto parlando di un personaggio che ha avuto un rilievo storico assolutamente fondamentale, anche se poco conosciuto dal grande pubblico. L'idea di Fukuyama è che la storia ha una sua direzione di marcia. Questa direzione di marcia è ancora espandibile sul piano, indirizza due direzioni. Una è quella del controllo della natura da parte dell'uomo, e su questo piano Fukuyama ritiene che ci sia ancora un futuro, ci sia ancora un da realizzare. Ma c'è un altro aspetto, che è quello della concezione dell'uomo, la lotta per il riconoscimento, e cioè il problema dell'equilibrio intorno alla questione della ricerca di onori, l'aspetto timocratico della timos in greco, come voi certamente saprete, significa onori, significa riconoscimento, per cui Fukuyama dice ci sono due deride, quella ultra egualitaria di Marx che non dà soddisfazione alla richiesta di riconoscimento che è tipica dell'uomo, che chiede un trattamento differenziato in base ai suoi meriti, e quella opposta di Nietzsche, megalotimica, cioè la richiesta eccessiva, l'idea di superuomo, l'idea che ci sia un superuomo e quindi un riconoscimento di una superiorità rispetto al sistema normativo, le leggi, eccetera. Lui dice no, il sistema liberale realizza un buon equilibrio fra queste due opposte deride, dando un sistema di riconoscimenti differenziati, quindi non egualitario, però nello stesso tempo evitando la deriva di tipo megalodimico classica dei regimi fascisti, per esempio. E siccome il regime liberale è anche il regime più compatibile con il regime di economia di mercato, che è quello che si è dimostrato più efficiente e più in grado di soddisfare i bisogni umani, l'incontro, la sommatoria fra organizzazione politica di tipo liberale, fra democrazia liberale ed economia di mercato, fornisce una sintesi ottimale, non più migliorabile. La storia ha raggiunto il suo fine. Il fine è il modello occidentale, incarnato in particolare dagli Stati Uniti, rispetto al quale esiste solo un problema di adeguamento degli altri. La modernizzazione è occidentalizzazione. La storia ha una e una sola direzione di marcia, la modernizzazione esprime questa direzione di marcia, dunque esiste un'ultima determinazione antropologica, quella attuale. Ecco, l'ultimo uomo, l'ultimo modello di uomo, ovviamente, è il punto d'arrivo della storia. Non ci sono più possibilità di conflitti fra modelli sociali diversi. La sconfitta del comunismo ha segnato l'archiviazione dell'unico tentativo alternativo al modello americano e al modello occidentale, cioè il modello liberal capitalistico. D'ora in poi esiste solo la possibilità di assorbire man mano all'interno di questo sistema gli altri paesi, man mano che pervengono alla loro modernizzazione. Fukuyama dovrà poi riconsiderare queste sue convinzioni una dozzina d'anni dopo, quando scriverà il libro Esportare la democrazia. Le cose non sono andate esattamente come prevedeva lui, non c'è stata alcuna marcia trionfale per cui i vari paesi del mondo si sono consegnati al modello prefissato, e quindi occorre in qualche modo incoraggiare questo modello esportando la democrazia. Infatti Fukuyama dirà per esempio che esiste il problema dei failed states, degli stati falliti. Non tutti i paesi sono in grado di reggere un sufficiente controllo del territorio, per cui è compito della comunità internazionale, e ça va sans dire degli Stati Uniti prima degli altri, consentire un processo di state building che assicuri il controllo militare del territorio, e quindi inglobando questi paesi nell'ordine internazionale di tipo liberal capitalistico. È l'idea di impero, appunto. Fukuyama riprende e sviluppa l'idea di impero come sistema unico. Non coincide esattamente con gli Stati Uniti, ma certamente gli Stati Uniti hanno un ruolo assolutamente privilegiato all'interno di questo sistema di potere. Questo progetto non convincerà proprio tutti gli ambienti repubblicani, anzi, per la verità, troverà un'opposizione decisa. Questo rappresenterà, come dire, la dimensione utopica del nuovo secolo americano. Gli si contrapporrà una dimensione più direttamente politica, che è quella del progetto di Samuel Huntington, che 4 anni dopo il libro di Fukuyama pubblica un suo libro, Lo scontro di civiltà, che è appunto il tema su cui si ragiona in particolare dall'11 settembre in poi. Fukuyama ha in testa un sistema di governance mondiale unico, nel quale gli Stati Uniti hanno una, e tendenzialmente che evolva verso organismi, istituzioni internazionali all'interno dei quali gli Stati Uniti hanno una posizione per statuto, o se non per statuto, per fatto, egemonica. Huntington invece fa una riflessione diversa. Dice: no, guardate, intanto mettiamoci in testa una cosa: modernizzare non significa occidentalizzare. Le differenze culturali non sono irriducibili. Huntington dice: sconfitto lo scontro ideologico fra i due modelli, sconfitta l'ipotesi di guerra di religione, sconfitta l'ipotesi di guerra di religione politica intendo, resta invece una cosa: il valore primario è il valore dell'identità culturale. I prossimi scontri, non c'è un ultimo, non siamo alla fine della storia, ci saranno scontri fra modelli culturali e in particolare modelli di civiltà. Il tentativo degli Stati Uniti di equalizzare il sistema di civiltà mondiale si scontra in particolare con due ostacoli: l'Islam e la Cina. E Huntington spiega questo con il suo modello di conflitto di civiltà. Lui identifica una serie di aree di civiltà. La prima è quella che include gli Stati Uniti e l'Europa occidentale, è il modello di civiltà occidentale. Secondo è il modello di civiltà slavo-ortodossa, che è il suo punto di riferimento intorno alla Russia e che include un'imprecisata quantità di paesi slavo-ortodossi. Il terzo modello di civiltà è quello latinoamericano. Poi c'è la civiltà islamica, che include tutti i paesi dell'Islam, dal Marocco all'Indonesia. Quindi il modello di civiltà nera, che è l'Africa subsahariana, la civiltà indù, quindi intorno all'India, e la civiltà sinica, che si divide in sinica proprio, la Cina, e sinica shintoista, il Giappone, che dà origine a un modello di civiltà proprio. Al modello di civilizzazione occidentale va assimilata anche l'Australia. Non si capisce bene dove dobbiamo mettere Israele, se fa parte della civiltà occidentale, ma pare di no, se costituisca un modello di civiltà a sé stante con pochissimi milioni di abitanti che ha, o se va messo su qualche conto imprecisato. Sostanzialmente ci sono queste otto grandi zolle. L'idea è, per la verità, si oscilla spesso nel libro fra due concetti: il modello di civiltà come dato rispetto a cui il pensatore politico organizza le sue strategie, o se invece il modello dell'equilibrio fra sistemi di civiltà sia qualcosa da realizzare, quindi qualcosa di voluto e non di dato. Questo è un aspetto che resta abbastanza irrisolto nel libro di Huntington. In realtà il libro di Huntington ha una serie di punti deboli, a parte il fatto che contiene una notevole quantità di errori dal punto di vista storico, ma questo sarebbe sciocco fare le bucce ad Huntington da questo punto di vista. Ad Huntington non interessa l'aspetto scientifico, quello di Huntington è un manifesto politico, è l'idea di realizzare un nuovo ordine mondiale che in qualche modo ricalca, rivisto e corretto, l'idea degli imperi nazionali. Qui gli imperi hanno un ruolo di area e di modello di civiltà. Se ci fate caso, la cosa è organizzata in questo modo. Il modello di civiltà occidentale ha al suo interno due delle grandi potenze mondiali, l'Europa e gli Stati Uniti. Il modello di civiltà slavo ortodosso ha una grande potenza che è la Russia. Il modello di civiltà sinico ha quello propriamente detto buddista alla Cina, quello shintoista il Giappone. Resta e quello indù ovviamente coincide con lo Stato nazionale indiano. Restano tre grandi modelli di civiltà che non hanno esattamente una grande potenza guida. Tenete conto che stiamo parlando della metà anni 90. Quindi il modello latinoamericano non ha una grande potenza, perché all'epoca nessuno prevedeva che il Brasile avrebbe avuto questo tasso di sviluppo, questa crescita. Resta invece senza guida il modello di civiltà nera, oggi sembra che questo ruolo possa essere svolto dal Sudafrica, e resta senza una grande potenza vera e propria il gruppo islamico, dove ci sono più paesi che aspirano a questo ruolo, ma piuttosto ridendosi a vicenda. L'Indonesia è il paese islamico più popoloso, ma il Pakistan è l'unico che ha la bomba nucleare, l'Egitto ha un'egemonia dal punto di vista culturale, ma l'Arabia Saudita è il paese che ha i luoghi santi, quindi esistono una serie di paesi che aspirano grosso modo a questo ruolo di guida, potremmo anche includere l'Iran. Questa è l'idea che ha Huntington, per cui i modelli di civiltà finiscono per diventare soggetto politico come? Intorno alla grande politica, alla grande potenza di riferimento. E ça va sans dire, per il modello di civiltà occidentale, la potenza di riferimento sono gli Stati Uniti. Vuoi perché sono la prima potenza occidentale, vuoi perché l'Europa non è una realtà statuale. L'Europa è un'espressione geografica che si è data una moneta, ma non è una realtà statuale. Quindi ovvio che gli Stati Uniti sono il cardine. Ora, in realtà, la natura politica di progetto spacciato per operazione scientifica si capisce quando si va a esaminare nell'interno la suddivisione delle varie zone. Il primo problema è questo. Allora, se voi doveste leggere il libro di Huntington, scoprireste una cosa, che la nozione di sistema di civiltà non ha una sua definizione. In tutto il libro non c'è una definizione del concetto chiave che regge tutta la sua costruzione teorica. Di conseguenza non si capisce quali sono gli elementi costitutivi di un modello di civiltà. Sembra di capire, qualche volta si accenna al ruolo della religione, qualche altra pagina del libro si accenna sic alla razza, concetto scientifico indiscutibile, come voi immaginerete, quello di razza. Ora, assumendo pure la religione, non si capisce per quale motivo la religione cristiana dà luogo a tre modelli di civiltà: occidentale, slavo ortodossa e latinoamericana, mentre il modello islamico, che pure si divide fra sunniti e sciiti, dà origine a un unico modello di civiltà. E meno che mai si capisce per quale strana ragione l'America Latina cattolica costituisca un suo modello di civiltà distinto, per esempio, da Spagna e Portogallo, che non solo sono cattolici anche loro, ma parlano esattamente le stesse lingue e hanno un'indubbia storia comune, e che invece sono inclusi nel modello di civiltà occidentale insieme ai protestanti angloamericani. Non si capisce bene. Né si capisce bene perché la Turchia venga ritenuta un paese bilico. Sì, bilico viene deciso, viene definito. Ci sono una serie di paesi che lui ritiene che siano in bilico. Il Messico, per esempio, che può essere tanto un paese occidentale quanto un paese latinoamericano. La Grecia e la Turchia, che possono essere tanto paesi occidentali quanto rispettivamente paesi slavo-ortodossi o islamici. In realtà tutto il libro di Huntington ha un punto debole, perché, per esempio, se noi pensiamo al modello di civiltà come all'unità base della cultura umana, quasi le grandi zolle continentali, ne deriverebbe che il modello di civiltà, l'appartenenza di un paese a un modello di civiltà, sia un'appartenenza oggettiva, data, non decidibile e di lungo periodo. E invece, a leggere il libro, uno avrebbe l'impressione di stare all'hotel del libero scambio. La Grecia può decidere se andare da una parte o dall'altra, altrettanto la Turchia e il Messico. Israele non sappiamo dove metterlo. Ma addirittura a un certo punto si dice: se gli Stati Uniti si deoccidentalizzassero, l'Europa resterebbe un spuntone insignificante alla periferia del blocco asiatico. Ora, come fa un paese a deoccidentalizzarsi? Scrive all'anagrafe, che fa? E soprattutto che cosa diventa? Ora, chiunque di noi capisce che non è molto probabile che domani in Egitto decidano di adottare il danese come lingua ufficiale o che i brasiliani decidano in massa di convertirsi all'ebraismo o all'ortodossia. Cioè ci sono delle cose che hanno un loro valore in qualche modo ascrittivo, che possono evolvere. Non vedo qui la vostra collega che era il Pranio, che sottolineava in modo particolare la modifica, il fatto che ci si modifica. Sì, ci si modifica, ma nel tempo. Sono processi storici estremamente lenti. In realtà, eccola là dove sta, no, io guardavo più in là, eccola, adesso l'ho vista, perfetto. Ci si modifica, ma ci si modifica nel tempo, attraverso processi storici. Ma ad Huntington non interessano i processi storici. Se ci fate caso, il suo modello di civiltà occidentale non è altro che la formula NATO, sostanzialmente. Sono i paesi appartenenti alla NATO, e questo spiega perché Grecia e Turchia possono decidere, perché fanno parte della NATO. Così come si capisce il perché Huntington non voglia nel modello di civiltà occidentale gli Stati Uniti, perché uno dei problemi di Huntington è il rifiuto dell'immigrazione selvaggia dal Sud America, dei latinoamericani, che è uno dei problemi grossi dell'identità culturale americana. Il nativismo, la difesa dei nativi, esposta in un brillante saggio di Huntington su Foreign Affairs del 2004, dice abbastanza chiaramente il perché i latinoamericani devono essere un modello di civiltà diversa e devono starsene dove stanno. Quindi, come vedete, è essenzialmente un progetto politico che ipotizza, a differenza di Fukuyama, Huntington accetta l'idea dell'irriducibilità culturale e il fatto che esistano grandi stati, grandi potenze, grandi aree territoriali che non saranno mai assimilabili all'Occidente. Accetta l'idea che la modernizzazione non abbia carattere unilineare, ma possa avere carattere multilineare. Risolve questo come? Attraverso il confronto fra alcune zolle irriducibili l'una all'altra e un modello di governance che noi possiamo definire in qualche modo il club dei 6, 7, 8 imperi, all'interno del quale, ben inteso, il ruolo di leadership e di massimo architrave spetta al modello di civilizzazione occidentale e ovviamente agli Stati Uniti. Cioè, in realtà l'esito è esattamente quello del nuovo secolo americano, alla stessa maniera, identico. Però, attenzione, passa attraverso una strada diversa da quella di Fukuyama. Abbandona completamente il terreno utopico che si esprime, per esempio, in quello di cui parleremo domani, che si affaccia spesso, il progetto di governance cosmopolita. Non è quello che accetta Huntington. Huntington vuole invece un ordine mondiale fortemente territorializzato. Infatti non esprime giudizio particolarmente favorevole alle ondate migrative, cosa che invece Fukuyama sostiene caratteristica, anzi vettore di occidentalizzazione nel mondo. L'operazione è riproposta attraverso la centralità degli Stati Uniti nel sistema di governance, ma il sistema di governance non ha un carattere cosmopolita, ha un carattere contrattuale, di contratto fra le grandi potenze, all'interno delle quali gli Stati Uniti guadagnano un loro ruolo non solo per la preminenza, ma per la capacità di creare alleanze e di dominare la scena politica internazionale, coltivando anche, facendo in modo che altri non si alleino contro di sé. È sostanzialmente il recupero del modello Giulio Claudio dell'impero romano. Ecco, vedete come torniamo al progetto di Luttwak. Ecco, questo è stato il grande progetto, ora ne parleremo, che però si è scontrato con tre cose. Si è scontrato con due guerre e una crisi economica. Le due guerre, come voi sapete, sono quella dell'Afghanistan e quella dell'Iraq. E prima ancora il grande attentato dell'11 settembre. Il grande attentato dell'11 settembre ebbe l'effetto di liquidare la residua credibilità del progetto di Fukuyama. Fu la rappresentazione plastica visiva, sembrò la rappresentazione plastica visiva del conflitto di civiltà, e per la prima volta gli Stati Uniti subivano lo shock della guerra in casa. Il personaggio Bin Laden incarnava il conflitto di civiltà con l'Islam. L'altro grande conflitto di civiltà, abbiamo detto, è con la Cina. Però il libro di Huntington resta più sullo sfondo. Perché? Perché della Cina si prevede uno sviluppo, ma in tempi molto più lontani. Tutto il progetto per un nuovo secolo americano dà per scontato una cosa, che fino al 2025, il progetto è della fine anni 90, non dovrebbe comparire sulla scena mondiale nessuno sfidante della potenza americana, né dal punto di vista finanziario, né dal punto di vista militare, né dal punto di vista politico, né dal punto di vista industriale. Ecco, quello che è successo è che le cose si stanno muovendo molto più in fretta. Il progetto era: fino al 2025 noi non abbiamo alcun concorrente credibile, dobbiamo approfittare di questa lunga pausa per mantenere il controllo e la prevalenza sul piano della strategia nucleare, ridislocare le forze armate sul territorio mondiale, sviluppare la rivoluzione degli affari militari, condizionare lo sviluppo soprattutto dei paesi più deboli in via di processi di state building. Quindi queste cose dovrebbero a loro volta riprodurre un vantaggio americano rispetto a tutti gli altri, che appunto rilancerebbe in avanti la egemonia americana fino a determinare un intero secolo americano. Ecco, questo progetto, dicevo, si è scontrato con una serie di cose. Se è vero che l'attentato dell'11 settembre da un lato dava ragione, sembrava dar ragione ad Huntington sull'idea del conflitto di civiltà, e però nello stesso tempo faceva nascere dubbi sulla capacità degli Stati Uniti di esercitare efficacemente il proprio ruolo di polizia, un'espressione che rubo a Tony Negri, di polizia della pace a livello mondiale, perché Tony Negri in qualche modo rappresenta una prosecuzione del discorso di Fukuyama Sen attraverso il suo libro Impero. Dà per scontata l'affermazione dell'impero come polizia della pace. Ma la polizia della pace è tale se riesce a intervenire efficacemente in qualsiasi angolo di... L'impero è tale se non ha un altro da sé. E l'impero, ricordatevi, non conosce nemici legittimi, non conosce justus hostis, conosce solo latrones. L'impero è tale se si ispira alla massima di parcere subiectis et debellare superbos. Traduco: debellare i superbi e perdonare a chi si sottomette. L'impero non conosce interlocutori alla pari, l'impero conosce sottomessi o conosce superbos, superbi da debellare, non justus hostis, non nemici giusti, ma avversari giusti, ma latrones. E i latrones si appendono alle croci, non c'è diritto di guerra che riguardi latrones. Chiaro? Bene, questo progetto spinge ovviamente alla guerra dell'Afghanistan. La guerra dell'Afghanistan in qualche modo Sì, certo, c'è il problema del controllo delle rotte del petrolio, c'è il problema dell'insediamento militare nella Repubblica Centrasia, sì, nella Repubblica Centrasia, eccetera. Tutto questo c'è, ma è anche la necessaria conseguenza di questa assunzione di ruolo imperiale degli Stati Uniti, che a quel punto, per essere credibile, deve tradursi in un'operazione militare di quella natura. E la dottrina dell'Airland Battle ha avuto già un suo battesimo del fuoco e un suo grande successo con la prima guerra del Golfo. Nella prima guerra del Golfo, nel giro di un mese, c'è il Blitzkrieg. Nel giro di un mese gli iracheni sono sconfitti con un numero bassissimo di morti della coalizione unita degli Stati Uniti, e badate, dei circa 240 morti, se la memoria non mi inganna, della guerra, 110 sono per fuoco amico, altri sono per incidenti. Quindi il sogno, il progetto della guerra a zero morti propri, non altrui, sembra raggiunto, sembra inverato. Anche è il modello di attacco che verrà realizzato in Iraq sarà esattamente il modello della Airland Battle, l'attacco aereo massiccio. Beh, voi siete troppo giovani per ricordarvene, perché credo foste bambini, ma chi dovesse aver visto qualche film, qualche cosa, eccetera, la guerra dell'Iraq fu una guerra che per 4 settimane fu tutta guerra aerea, provvide alla distruzione sistematica delle linee di comunicazione delle forze avversarie, e dopodiché l'obiettivo militare della conquista, fra virgolette, liberazione del Kuwait venne realizzato in meno di una settimana. Quindi piena applicazione di quello che vi avevo detto prima. A quel modello si ispirano le due guerre successive, e in effetti tanto la seconda guerra del Golfo, che sarà del 2003, quanto la guerra dell'Afghanistan saranno ispirate esattamente agli stessi schemi strategici: ruolo prioritario e prevalente dell'aviazione, distruzione delle telecomunicazioni dell'avversario e delle infrastrutture, eliminazione dei reparti più pericolosi e quindi rapidissima occupazione del territorio. Però succederanno due cose: succederà che, primo, si manifesterà una guerra di guerriglia, per cui la guerra diventerà tutt'altro che guerra di breve periodo, impantanerà gli Stati Uniti in una guerra di lungo periodo. Oggi la guerra dell'Iraq dura da 7 anni, la guerra dell'Afghanistan dura da 9. E se tenete presente che la guerra del Vietnam non è durata tanto, la seconda guerra mondiale non è durata tanto, questo capite che non è un successo degli Stati Uniti. E rappresenta il logoramento di quel progetto di rapida operazione di polizia internazionale che può dirigersi in ogni momento in qualsiasi angolo del mondo. Oggi gli Stati Uniti minacciano da tempo un'operazione militare contro l'Iran, ma in realtà appare non molto probabile che possa essere attuata, perlomeno nelle modalità di un'occupazione territoriale. Una nuova guerra di debellazio dell'avversario appare poco praticabile oggi per gli Stati Uniti, anche per i costi. Come vi ho detto, la guerra dell'Iraq è costata più della guerra del Vietnam, della Corea e della seconda guerra mondiale messe insieme. La guerra super tecnologica costa, la guerra dei mercenari costa. Quindi una guerra prolungata nel tempo del genere ha un costo assolutamente senza precedenti. Bene, questo ha avuto delle ripercussioni. La prima guerra, quella dell'Afghanistan, è realizzata da Bush all'insegna, se volete, in qualche modo ha dentro più il modello di Fukuyama. grande coalizione internazionale di tutto il mondo guidata dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti peraltro hanno una legittimazione, oltre che data dal dato di fatto di avere l'esercito più numeroso, più forte, cioè sono il paese aggredito, sono il paese che reagisce all'offesa ricevuta, quindi in qualche modo difficile non riconoscere questo ruolo guida agli Stati Uniti, che sfruttano fino in fondo, articolo 42 della Carta delle Nazioni Unite, la guerra autorizzata dall'ONU, per cui in qualche modo gli Stati Uniti incarnano l'ONU. E questo in qualche modo prosegue sia la prima guerra del Golfo, che è stata guerra autorizzata dagli Stati Uniti, sia la guerra del Kosovo, anche quella, attenzione, la guerra del Kosovo è stata importante per un'altra ragione, perché non solo è guerra autorizzata, ma è guerra realizzata dalla NATO, quindi lì proprio il modello di civiltà occidentale in quanto tale in campo. Anche se per la verità non tutta la NATO partecipa, i tedeschi eccepiscono che per la loro costituzione non possono mandare soldati fuori dai confini nazionali, l'Italia dalle basi però in realtà partecipa e non partecipa, va bene, ci sono delle ambiguità, però sostanzialmente il modello resta quello della NATO come incarnazione del potere imperiale, l'ONU come sorta di papato che benedice la guerra, l'impero americano come braccio armato che realizza la crociata. Questo schema in parte è allargato dalla NATO agli altri, si ripete con l'Afghanistan, ma, e questa è la seconda cosa che succede oltre che durata della guerra, succede un'altra cosa, che gli alleati cominciano a non essere più così docili, e quando c'è la seconda guerra del Golfo ci sarà un dissenso aperto, un dissenso morale di notevole impatto sull'opinione pubblica, soprattutto dei paesi neolatini e cattolici, che è quello del Papa, ma un dissenso politico ben più rilevante da parte di Germania e Francia, i due principali paesi della NATO dopo gli Stati Uniti e l'Inghilterra, che non partecipano alla guerra, anzi prendono apertamente posizione contro. L'Italia avrà la consueta posizione ambigua, fa parte anche del carattere nazionale questo, in qualche modo. Altri paesi avranno inizialmente una posizione favorevole di adesione, salvo sfilarsi molto rapidamente, il caso della Spagna dopo la vittoria di Zapatero, e dopo altri ancora si sfileranno. In quel momento, quando si decide la guerra, Bush lancia un'ipotesi del momento in cui il progetto imperiale è più vicino a diventare un progetto anche istituzionale, giuridico. Bush parla di Wishing Coalition, la coalizione della volontà. Bush in quel momento pensa a sciogliere sostanzialmente la NATO, che si è rivelata indocile, pensa a scaricare i così poco affidabili alleati europei, pensa a un ridimensionamento netto dell'ONU, che finisce per diventare una delle tante agenzie internazionali stile l'UNESCO, la FAO, queste cose qui, e pensa a lanciare la coalizione dei volenterosi, cioè sostanzialmente l'impero si fa con chi ci sta. Questa è l'idea. Chi è disposto a fondere il proprio apparato difensivo con gli Stati Uniti gode della sua protezione e dei suoi favori e fa parte dell'impero. È il momento in cui, attraverso questa coalizione che in qualche modo dovrebbe riassorbire le funzioni della NATO, del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, cioè l'idea di un grande, di una istituzione che rifletta l'alleanza della spada con la moneta di cui vi ho parlato prima. La fondazione dell'impero sulla prevalenza monetaria e militare, resa istituzione con un suo apparato giuridico di norme. È il momento in cui l'impero sta per diventare impero anche dal punto di vista di fatto, di apparato. Perché questo non accadrà? Beh, prima di tutto non accadrà, perché la guerra in Iraq andrà, come voi sapete, ma soprattutto per altre due ragioni. La Cina avrà un'ascesa molto rapida, molto più rapida del previsto. Anche la Russia avrà una ripresa più rapida del previsto. E in secondo luogo la crisi economica del 2008. Come vi dissi, nell'estate 2008 precipitano questa serie di avvenimenti e il progetto imperiale americano impallidisce di fronte alla crisi economica, alla crisi georgiana, che dimostra l'incapacità dell'impero di intervenire in un ambito territoriale, in un grande spazio che torna di competenza di altri. La Russia interviene contro la Georgia, che incautamente aveva scatenato il conflitto, più che altro per dimostrare la teoria dei grandi spazi: quello è un grande spazio di sua pertinenza e altri non devono intervenire. Quindi l'idea della polizia della pace a livello mondiale non solo è già stata liquidata, ma viene ufficialmente liquidata da quei fatti. Le Olimpiadi di Pechino rendono visibile l'ascesa del nuovo gigante. C'è un nuovo sfidante e molto prima del 2025. Tutto questo causa l'eclisse del progetto imperiale, che in qualche modo è entrato in una fase di discussione e di elaborazione. Non è tanto l'elezione di Obama ad averlo determinato, quanto piuttosto l'evolvere oggettivo della situazione, che dimostra una cosa: come nella storia esista un aspetto soggettivo e un aspetto oggettivo che non coincidono. Guardate, la guerriglia irachena e la guerriglia ancor più afghana tutto sono meno che fenomeni che possono essere identificati come rivolte libertarie, democratiche o antiimperialiste. Hanno una collocazione politica, se volete, nettamente reazionaria su più aspetti, ma svolgono un ruolo oggettivo di tutt'altro segno. Se il progetto imperiale americano è uscito con le ossa rotte, lo dobbiamo essenzialmente alla resistenza irachena e afghana, al di là delle caratterizzazioni culturali e politiche che esse hanno. La sconfitta degli Stati Uniti è dovuta essenzialmente a questo, il che vi dice come, guardate, nella storia non sia poi così facile tirare linee dritte, per cui appunto c'è uno sviluppo unidirezionale. Torniamo a quello che io vi ho detto più volte, insistendo: le leggi della complessità, per cui non sempre a un input corrisponde un output direttamente correlato logicamente, è l'incrocio dei fattori che produce l'esito finale. E questo vi spiega anche un'altra cosa, vi spiega come con prepotenza torna il livello di asimmetria. Il progetto di Fukuyama, fatto proprio da Negri nell'impero, viene sconfitto sostanzialmente da una cosa, perché sia Fukuyama, l'espressione, io la riprendo da Negri, l'idea che l'impero sia uno spazio liscio, che ha eliminato le asimmetrie, l'espressione l'impero è uno spazio liscio proprio di Negri, è proprio quella che va in pezzi. È proprio quella che invece si dimostra irrealistica rispetto alla stessa analisi di Huntington. Attenzione, Huntington fa un manifesto politico, su questo siamo d'accordo, però attenzione, perché alcuni degli elementi che lui segnala, che lui utilizza, devo dire con non grande onestà intellettuale, non sono però infondati. Che si pone nel mondo della globalizzazione, quando le grandi masse vengono a contatto con loro e lo spazio si confonde, per cui sì, è vero che la sovranità, l'autodeterminazione dei popoli ha ragione di esistere se ha un territorio, ma quando i popoli cominciano a mescolarsi, questo mette a contatto modelli culturali diversi, li fonde e crea attriti. Questo è un dato di fatto vero ed è uno dei problemi politici della nostra epoca, è uno dei problemi storici della nostra epoca che abbiamo e a quale dobbiamo trovare in qualche modo una risposta e una soluzione. Quindi l'ipotesi dello spazio liscio e dell'impero che omogeneizza tutto è un'ipotesi sconfitta. Ha vinto l'asimmetria sostanziale del mondo. La globalizzazione pensata come livellamento, come omogeneizzazione dello spazio mondiale appare apertamente sconfitta, e all'interno di questo bisogna ripensare anche la vicenda dello Stato nazionale di cui parleremo domani. Però è anche vero che anche l'altra idea, quella del conflitto di civiltà, più realistica, più aderente alla concreta fase storica, presenta una serie di aporie e una serie di tensioni proprio logiche da risolvere. Le asimmetrie hanno vinto, ma non sappiamo come governarle. Lo spazio mondiale non è liscio, è tutt'altro che liscio, è accidentatissimo, ma non sappiamo come affrontare problemi comuni. Penso a quello del clima e quello dell'ambiente. Penso per esempio al problema della coesistenza fra culture diverse in ambiti territoriali comuni. Penso ad altre sfide della globalizzazione di cui parleremo, come quella della criminalità organizzata e del terrorismo. Tutti fenomeni ambivalenti a due facce, di cui parleremo nelle prossime lezioni, a cominciare domani dal problema dello Stato nazionale. Che ora abbiamo fatto? 12:10. Ah, vabbè. Beh, forza. Scatenatevi con le domande come al solito. Molina, di lei l'ha già pronta o ci vuol far finta di pensarci un po'? Strano, vabbè. Forza. Io stavo pensando, anche osservando la cartina che ha alle sue spalle, che parla di organizzazione, che nel 900, questa è un'impressione che viene anche da Nicolò Colombo, che sta leggendo questo documento, nel 900 era trovato l'idea che il mondo si fosse tutto organizzato attraverso la espansione dello Stato nazionale, e che di conseguenza tutti i sistemi fossero diventati ormai simili, e che di conseguenza penso che abbia anche portato alla teorizzazione di tutti gli altri, visto che non è così come lei ha detto, ed è visto che anche si ha una regionalizzazione in cui, non essendoci più un conflitto ideologico globale tra Unione Sovietica e Stati Uniti, come dire, ogni regione fa da sé in realtà, nel senso che questo da quanto mi sembra di... Problema del relativismo culturale. Sì, no, quello che volevo chiederle era, nell'ambito dell'ascesa della Cina, della regionalizzazione, nell'ambito di un... Europa che è diventata grande grazie al suo azionista, che ruolo ha? Mi sembra però che invece adesso l'unità dell'Europa sia un impedimento a realizzarsi in Europa come potenza mondiale, e l'Unione Europea d'altra parte non ha nessuna capacità di essere altro rispetto a quella battaglia di economie fremgarate che ha adesso. Quale progetto fa l'Europa? Questa è la mia, se non è c'è sempre un'ipotesi anche peggiore. Forza. Beh, oggi che è successo? State... Oggi ci avete la conformazione di un piatto di spinaci lessi. Cioè proprio adagiati. Che è successo? Ieri. Io ho una domanda che non so se riesco bene ad articolare. Sostanzialmente è questa. Noi siamo più o meno convinti di essere nel mondo moderno, di essere cittadini di un paese democratico, di una comunità in generale democratica, di avere un certo peso nelle decisioni che ci riguardano. In realtà poi, sentendo questi progetti di nuovo impero, vedendo come si configura il potere, l'alleanza tra la lira e la spada, mi sembra sostanzialmente che tutta questa modernizzazione non c'è stata. Le guerre ci sono sempre comunque per questioni molto, molto banali come il petrolio, che non c'è l'esportazione della democrazia, che in buona sostanza sono in pochi ad Cranio, sono convinto che lei pensi che io sono stato politicamente poco corretto in questa reazione. Che già sull'immigrazione lei mi ha bacchettato. Anzi, la lezione che lei ha fatto oggi mi fa riflettere su un pensiero che non in modo scientifico, perché non abbiamo gli strumenti per poterlo affrontare, in anni passati mi avevano già portato a pensare quello che fosse poi il progetto americano rispetto alla possibilità di conquistare il mondo. Io ricordo che 15 anni fa dissi a un mio responsabile di servizio quasi la sensazione che ci stiamo incamminando verso un nuovo impero romano e non avevo gli strumenti che lei oggi ci sta offrendo. Però sono anche convinta, e non è scientifico il mio ragionamento, più come dire filosofico o etico, non so in che modo collocarlo, che comunque alla fine l'uomo ha la consapevolezza di ciò che gli sta accadendo intorno, e non a caso. È vero che c'è un progetto soggettivo e un progetto oggettivo, però è anche vero che a un certo punto l'uomo prende consapevolezza di ciò che sta per succedere, e quindi non a caso poi gli avvenimenti storici vanno in un certo senso. I due grandi blocchi si sono dissolti. Lei tra l'altro ha messo in evidenza che ci sono due grandi continenti, il continente africano e il continente americano, che di fatto non si sa bene in questa sudamericano, sì, non si sa bene, no, in questo discorso della globalizzazione che cosa stanno facendo e dove stanno andando, e d'altra parte non c'è più, almeno apparentemente, l'interesse di questi due grandi blocchi, della Russia e dell'America, nel giocarsi con le parti di territorio. Quindi vuol dire che siamo in una fase, e ripeto, non è scientifico il mio ragionamento, né storico, siamo in una fase in cui probabilmente l'uomo, ma anche attraverso i governi delle varie nazioni, stanno cominciando a riflettere su quello che sarà il futuro del mondo che ci aspetta. Non può essere altrimenti. È vero che la storia si ripete e i cicli si ripetono, però proprio il fatto che abbiamo raggiunto un livello culturale, tecnologico, che non abbiamo mai avuto nel passato, probabilmente porta anche l'uomo ad avere una responsabilità maggiore rispetto agli avvenimenti che si stanno susseguendo in questa fase storica. È molto fumoso, mi rendo conto, però è proprio un ragionamento a caldo, non ragionato. No, ho capito più. Lei Rasmussen dalla sua piccola Svezia, no? Danimarca. Scusi, perdono. Che devo dire? Che impressione c'ha? Mi svergogna un po' che essendo la Danimarca sempre fa quello che vuole gli Stati Uniti, che siamo in mezzo di questa guerra qua. Vedo che la cosa è pienamente accettata. Vedo che la cosa è pienamente accettata. No, non mi piace. No, dico dalla Danimarca, non da lei. Ah, sì. Beh, però fino a quando continuate a produrre la Carlsberg e il burro l'Urpark ve lo perdoniamo. Mineo. Sì. Ma l'egemonia culturale degli Stati Uniti, il fatto che comunque adesso il sistema culturale americano si è diffuso tutto il mondo, noi come America, come in Cina, abbiamo molti amici americani, per una percezione, pur non essendo mai stati negli Stati Uniti, tanta parte nostra si basa su cose viste negli Stati Uniti. Anche questo fa parte del sistema, cioè dell'idea di creare un nuovo impero, o sono cose separate? No, è una semplice curiosità. Riguardo l'11 settembre, ho sentito delle teorie, non so bene da dove provengano né quanto sono fondate, mi domando proprio se lei può dire se hanno un fondamento, riguardo alle quali l'11 settembre potrebbe essere un piano della CIA, organizzato dalla CIA per giustificare operazioni militari che vanno a rafforzare il controllo degli Stati Uniti sui gasdotti dell'Afghanistan e sui territori. David Ronson. Con un'analisi ancora più beh, questo succede quasi sempre. Ma come fare? Cioè, il punto è, non si pensa mai alle relazioni. Per esempio, il dare per scontato che questi modelli si realizzeranno, che loro. Cioè, anche il discorso della Baralab, scusa, sarà una Baralab, non abbiamo grande tecnologia, però loro mi hanno risposto con una guerriglia, che noi abbiamo spesso interpretato appunto come antiimperialista, come democratico, però lei stessa ha detto, ha accennato un attimo al, al punto che, magari ho detto malissimo io, è facile, però non so bene come la vedevano loro questa, questa reazione alla, all'assalto sul loro paese, no? Non è questo. Altri? Vabbè, la risposta domani. Così ci pensiamo un po', anche perché sono le 12:20, tra un po' ci cacciano fuori. Domani vi dico tutto, compreso chi ha fatto le misce. Vabbè, te la do privatamente. Che esami c'hai? Brigati che così decidete che fare, il 28 scade, eh? Allora, comincia a far caldo, ragazzi. Si è fatto un po' meno. Ciao, vieni, vieni Luca. Ciao Marco, mi hai chiamato prima? Dimmi. Grazie. Sì. No, il più è che non mi dica. Va bene. Sei sicuro che lo gradirà? È un po' tardi direi, però vabbè, meglio tardi che mai. Va bene, d'accordo Marco. Sempre al concetto Marchesi e sempre di pomeriggio o di mattina? Pomeriggio. D'accordo, va bene. Ti abbraccio Marco, ciao. Sì, ciao. Come vanno le cose? No, io me lo sono letto. Ma ragioniamo un attimo perché intanto la testa è andata. Sì. Allora. Non è ancora niente, vero? Non si è fatto più vivo. Io te lo farò di nuovo. Ma comunque io ti darò il capito di una volta indietro, perché sto leggendo e sto facendo una serie di annotazioni. Ma dopo una cosa, questi mi molto bene. Ma io sono l'ultimo. Scrivi molto bene, tutte le cose che fanno il lavoro. Ma c'è scritto alcune cose, ma no, guarda, perché ne è anche un po'. Sì, però secondo me ancora è un po' ciao meglio. Salve. Solo per questa cosa. Ha fatto bene. Come si farà a salvare? Perché questo non è amico mio. Però l'ho lasciato qua, a dimenticare. Possiamo uscire. Ciao, buono, guardate, l'ho messo in pausa.